Blu Radio Veneto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Ben ritrovati da Mirko Cavallini in studio e di Daicin Regia. Prosegue il nostro percorso nel cinquecentenario della Riforma Luterana in collaborazione anche con il Centro Universitario di Via Zabarella, che ha organizzato una serie di incontri e approfondimenti nel ciclo di incontri del martedì. Siamo più o meno a metà del percorso e la serata che vi proponiamo oggi è quella dell'incontro con Fra Luciano Bertazzo sui caratteri generali della riforma. Però, come spiega in apertura lo stesso padre Bertazzo, il titolo doveva essere diverso. Buon ascolto. I giorni della Chiesa. Quando mi aveva chiesto un titolo, mi era così sgordato: disgrazia o grazia? Dalla disgrazia alla grazia, poi alla fine abbiamo così convenuto su questo titolo, nel senso che sicuramente la riforma ha segnato profondamente l'identità dell'Europa del XVI secolo, con degli strascichi che si sono prolungati successivamente, ma quello che stiamo vivendo in questo momento, proprio nella rilettura storica e nella rilettura anche teologica della storia, credo che stia diventando un momento di grazia, nella misura in cui siamo capaci di decodificare la storia o di comprenderla. Ma vorrei partire da quello che scriveva domenica scorsa Massimo Firpo nel Sole 24 Ore, nella pagina culturale, in cui appunto entrava nel merito di questo. Massimo Firpo, bisogna fargli tanto di cappello perché è uno dei massimi specialisti sulla storia della riforma cattolica e della controriforma e delle eresie del Cinquecento. Scriveva, mi permetto di citarlo: oggi i teologi cattolici e luterani si armano di nuove utopie ecumeniche per sottoscrivere formule di concordia sulle questioni religiose che mezzo millennio fa divisero l'Europa lungo aspri confini religiosi e politici, segnati da guerre, stragi, persecuzioni e violenze d'ogni sorta. Viva Dio! Meglio la pace della guerra, la tolleranza che l'intolleranza. Ma è bene non dimenticare quelle persecuzioni e violenze, anche per non trattare la storia e la teologia come un'ondivaga bandierina che ogni volta si ridipinge per adattarla alle esigenze del presente. È bene non dimenticare, ma come allora ricordare? E allora vorrei utilizzare, proprio per entrare sulla questione, prima di entrare in merito, a quello che è stato il documento che ha preparato il centenario della riforma, dal conflitto alla comunione, le commemorazioni luterane cattoliche nel 1217, che è stato presentato, pensato, questo documento, nel giugno del 2013 a Ginevra, dal segretario generale della Federazione Luterana Mondiale, il cileno Martin Jung, dove in questo documento, ritornato poi nell'incontro di Lund, su cui ritornerò, si diceva che non si tratta di raccontare una storia diversa, ma raccontare la storia in modo diverso e ancor più di raccontarla insieme in maniera condivisa. E vorrei dire che allora questo è un po' la novità, ecco, su cui noi possiamo da mettere un po' come base. Si tratta di raccontarla in modo diverso. E credo che quelle che sono state le affermazioni, l'incontro di Lund e di Malmö, vengono proprio incontro a questo tipo di lettura e di interpretazione di una storia ecumenica, senza per questo appunto accogliere quella provocazione di Firpo che parla di una ondivaga bandierina che ogni volta si ridipinge, ma è un bisogno di andare in profondità, è un bisogno di ricomprenderla da un punto di vista della storia, la quale non va giustificata ma va compresa. Il problema oggi è proprio quello di comprendere la storia come tale. tra parentesi è molto interessante che proprio in una pagina successiva del Sole 24 Ore di domenica scorsa venivano recensiti due testi su come insegnare la storia e se la storia ha ancora un senso di essere insegnata oggi. Allora, con queste premesse, così vorrei dire metodologiche, ecco, volevo anche farne un'altra, perché celebrare e ricordare un anniversario è sempre un'opportunità. Nella misura in cui l'evento ricordato e celebrato viene riletto e ripensato. È il passato che incontra sempre il presente, perché il presente è sempre incinto del passato e ogni fatto storico non è congelato nel suo darsi, ma è un farsi attualizzato secondo le domande emergenti che il presente pone. Ecco, tanto più se si tratta di un evento, credo, come la Riforma protestante, che ha segnato così in profondità la stessa identità cristiana e geopolitica dell'Europa fino quasi ai nostri giorni. Fino a quando il fattore religioso era ancora significante nell'orizzonte di significato della vita, dell'esistenza, di una visione del mondo e della vita stessa. Se vogliamo proprio utilizzare la parola tipicamente tedesca, la Weltanschauung, cioè la visione del mondo dove il riferimento religioso era significante e significativo. Vorrei anche ricordare che appunto come la storia possa essere poi utilizzata secondo determinati interessi che possono essere presenti. Nel 1917 non ci fu modo di celebrare l'evento della riforma perché si era in piena guerra. Ma quando nel 1883 la Germania volle celebrare la figura di Martin Lutero nel centenario della sua nascita, venne utilizzato proprio come il rappresentante più significativo della identità germanica, dello spirito tedesco, del Volksgeist tedesco, sappiamo che ha portato poi a tutte quelle successive conseguenze che si sono espanse fino agli anni 30. Lutero il rappresentante tipico dell'identità germanica contro altre identità. Quando nel 1983 si è celebrato il centenario della nascita, un secolo dopo, in una forma collaborativa di dialogo ecumenico, da parte cattolica si riconobbe in Lutero essere stato un vero testimone di Cristo. Quindi vedete che dipende molto dai percorsi, dalle logiche, dalle interpretazioni, vorrei dire anche dagli interessi che ci possono essere alle spalle nel ripensare, nel ricreare, nel scrivere e nel dire la storia. Ma allora, con queste premesse, ecco, io vorrei entrare un po' proprio nella come si faceva nel Medioevo, quando c'era la explicatio terminorum, scusate, cioè, allora, mettiamo in chiaro le parole. Cosa vuol dire riforma? E cosa vuol dire riforma protestante? Anche su questo devo contestualizzare, perché per molto tempo, quando si è parlato di riforma, si è pensato soltanto alla riforma protestante, quindi qualche cosa in contrapposizione al cattolicesimo. Mentre per il cattolicesimo si è parlato solo di controriforma, ovvero sia un'azione che nasce in risposta, in reazione alla riforma protestante. Per fortuna appunto che la storia nel suo ripensarsi, per questo qui abbiamo bisogno continuamente di rileggere, di ripensare, di ricostruire, di ricomprendere i fatti appunto del passato, c'è stata tutta una storiografia proveniente proprio dal mondo tedesco che ha cercato di allargare gli orizzonti superando le contrapposizioni ideologiche che potevano essere presenti. Per cui oggi, quando noi parliamo di riforma, è una galassia di eventi che si intersecano reciprocamente gli uni con gli altri e che a un certo punto della storia ha prodotto il fenomeno, la presenza di Martin Lutero, il quale non è altro che una punta emergente di un grande iceberg capace di emergere da una domanda diffusa da una realtà estremamente diffusa che era diventata ormai incontrovertibile, a cui bisognava dare delle risposte alle domande che erano presenti. Allora, da che cosa nasce questa riforma, questa parola? Qual è la galassia su cui noi possiamo innestare la figura e il ruolo di Martin Lutero? Innanzitutto proviene da una domanda che percorre continuamente la storia della Chiesa. Ecclesia semper reformanda era una delle parole d'ordine che risuonavano continuamente a partire soprattutto dal 400, è una parola che è insita, innestata dentro l'identità ecclesiale. Il punto di riferimento è sempre la ideale comunità degli Atti degli Apostoli. Ma è chiaro che è una realtà che si istituzionalizza in quella dinamica dialettica contrastante che c'è tra l'intuizione e l'istituzione. Ma quello che noi assistiamo, appunto, e si parla quindi di una pre-riforma o di una riforma che proviene dal mondo medievale, diventa una emergenza che si dilata all'interno proprio di tutta quanta l'Europa, in risposta anche a delle situazioni di difficoltà ecclesiale che si stavano vivendo. Le sintetizzo e le richiamo soltanto attraverso alcuni brevi cenni. Innanzitutto quello che era stato lo scisma della Chiesa Cattolica, la presenza addirittura di tre papi, cioè questa la grande confusione che nasce, non si sa più dove sia l'identità ecclesiale. E conseguentemente ne viene fuori una afasia, una incapacità di un discorso ecclesiologico comune, convinto e convincente da parte del tempo. Quindi siamo in un contesto di afasia teologica. Un'afasia teologica con la capacità di qualcuno capace di dire parole convincenti, per cui si muove tutto quel grande movimento di domanda, di riforma, soprattutto individuale, che prende il nome della devozio moderna. Cos'è la devozio moderna? La devozio moderna è la risposta di gruppi laicali, che possono essere agganciati anche a delle comunità ecclesiali, ecclesiastiche di ordini religiosi, ma è tutto un movimento che si sviluppa soprattutto in quella parte dinamica della Renania, della Germania e delle Fiandre, quello che poi produrrà tutta quella pittura casalinga, quotidiana che noi conosciamo attraverso i fiamminghi, che sviluppa proprio una domanda di una risposta individuale a delle domande religiose che continuano ad essere presenti nell'orizzonte di significato del tempo. Quindi la devozio moderna che sviluppa questa capacità di dare delle domande che si declinano all'interno di un linguaggio prettamente religioso, di una esperienza religiosa. E Lutero si forma su questi testi della devozio moderna. Lutero legge i testi del maestro di Francoforte, che è uno dei mistici tedeschi che danno queste risposte alle domande emergenti del tempo. Sottolinea un termine, domande individuali, domande dove l'individuo emerge progressivamente sempre di più come il protagonista, come la figura principale. Se c'è un termine, a mio modo di vedere, che può appunto declinare e far comprendere il tema della riforma, e lo troveremo nella risposta, nella domanda centrale che Lutero si pone, quello della giustificazione, ma se possiamo trovare un termine che coniuga, che declina tutta quanta questa ricerca, è proprio l'individuo come tale che si mette su una strada di ricerca, di domande che lo animano dal di dentro. E una di queste risposte proviene proprio anche del, si sviluppa in modo particolare in quel grande movimento dell'umanesimo, della cultura umanistica del tempo, ovvero sia la riscoperta della individualità, la riscoperta dell'uomo come tale. E vorrei portare un esempio, un'immagine che può essere indicativa di questa emergenza della individualità. Famosa immagine dell'uomo di Vitruvio, quella che noi abbiamo rappresentato per volere di Ciampi nell'Euro. Cos'è l'immagine dell'uomo di Vitruvio? È utilizzata in un disegno di Leonardo da Vinci che sta nel gabinetto delle stampe dell'Accademia di Venezia, dove c'è l'uomo iscritto dentro un quadrato, iscritto dentro un cerchio. L'uomo che diventa la misura dell'elemento terrestre, il quadrato, platonicamente nella simbologia il quadrato significa la realtà terrestre, la quale però a sua volta si inserisce in una realtà celeste, il cerchio, è la quadratura del cerchio secondo alcuni. Ma questa immagine vorrei porla con molta forza, anche perché la utilizziamo senza forse nemmeno accorgersene continuamente, ma è un'immagine estremamente significativa di questo processo in cui l'individuo, l'uomo, la persona come tale diventa la misura di tutte le cose. Così lo possiamo interpretare, superando appunto quell'elemento platonico della congiunzione fra terra e cielo in cui l'uomo comunque si innesta come metro e misura di tutte quante le cose. Oltre a questo percorso dell'umanesimo, allora con questo porre al centro l'individuo, la persona riscoperta nella sua individualità, noi abbiamo tutto un grande movimento underground, ma che si sviluppa di domande di riforma che portano a delle istituzionalizzazioni concrete. Cioè non è vero che Lutero trovi il vuoto nella sua domanda di riforma della Chiesa, perché nel corso del 400, in risposta appunto a queste domande, nascono varie istituzioni, ne cito tre in modo particolare. Negli ordini monastici è l'emergere delle congregazioni benedettine. Cosa sono? Qui Padova è un esempio calzante. Qui a Padova, agli inizi del 400, un veneziano, Ludovico Barbo, che abate commendatario, ovvero sia in quelle forme degenerative delle abbazie, viene nominato abate di Santa Giustina, dove erano rimasti soltanto tre monaci e il monastero era desolato, pieno di erbacce, e prende seriamente l'impegno di abate e di essere monaco benedettino. Da quale cerchie viene Ludovico Barbo? Ludovico Barbo viene da tutte quelle cerchie presenti nell'aristocrazia veneziana, con membri che provengono dalle grandi famiglie, i Querini, i Giustiniani, i Condulmer, che a un certo punto si impastano di queste domande di riforma, di esigenze, di dare risposte serie alla propria identità anche credente cristiana, e danno luogo a Venezia a quel movimento dei canonici di San Giorgio in Alda. Da questo movimento umanistico credente cristiano proviene la figura di Ludovico il Barbo, il quale fa seriamente il monaco benedettino prima di essere fatto vescovo di Treviso a Santa Giustina, con alcuni compagni ridà vita al monastero, riprende la regola di San Benedetto, ricostruisce delle consuetudini, cioè il modo con cui interpretare la regola e vivere la regola di San Benedetto. Progressivamente attorno alla congregazione di Santa Giustina, all'esperienza di Santa Giustina, ci sono altri monasteri che si aggregano decisi a vivere la stessa esperienza della regola benedettina. Ed è un dilatarsi di queste congregazioni, dove ogni monastero ha la sua indipendenza, ma ha delle consuetudini comuni. Cito Santa Giustina perché giochiamo in casa, ma come Santa Giustina altre sono presenti in Francia, sono presenti in Germania, sono presenti a Montserrat in Spagna, e tutte quante capaci di dare risposte alle domande di un rinnovamento, di una riforma. Un altro esempio, partiamo da Padova, anche se non è l'epicentro, le osservanze all'interno degli ordini mendicanti, del francescanesimo, dei domenicani in modo particolare. cioè dei grandi ordini religiosi. Ma qui a Padova appunto si costituisce San Francesco dell'Osservanza, San Bernardino da Siena svolge un ruolo importante come predicatore, ovvero sia un rinnovamento del francescanesimo che dà vita a una nuova realtà del francescanesimo innestato dentro la città, capace di dialogare con il mondo umanistico, capace di dare delle risposte anche a quei laici che desiderano impegnarsi in una vita convinta nel loro essere credenti. Tosette nasce immediatamente a fianco della chiesa di San Francesco e in parallelo, in sinergia, l'ospedale di San Francesco. Ovvero sia, cioè un modo molto concreto con cui un gruppo di laici si alleano, in sinergia con questi ordini che si rinnovano, che fanno nuove proposte, e pensate a fianco di San Francesco, qui dove c'era l'intendenza di finanza in via Zabarella, si costruisce subito un monastero di donne parallele al convento di San Francesco. Quindi il movimento delle osservanze, a Padova è rimasto quella del francescano in modo particolare, ma c'era presente quella domenicana tra il convento di Sant'Agostino, l'attuale Caserma Piave, e Santa Maria delle Grazie, quella in via Cavallotti, dove c'era l'altro convento osservante dei domenicani. O per i servi di Maria, la chiesa di Santa Maria dei Servi conventuale e la chiesa di San Polo, che adesso è rimasto un piccolo buco vicino in via San Pietro qui a Padova. Cioè sono tutte quante, volevo esplicitare questo in sintesi, volevo esplicitare che c'è tutta una domanda quindi di riforma che è presente intensamente nel tessuto cristiano dell'Europa del tempo, non soltanto dell'Italia del tempo. Come l'altro esempio che volevo portare proprio sinteticamente, cioè che apportano questo dato della domanda diffusa di riforma, la presenza di confraternite laicali, le compagnie del Divino Amore, che nascono a Genova, ma che si diffondono in tutta quanta l'Italia, soprattutto del nord, che sono laici, comunità di Sant'Egidio ante litteram, se volete, impegnati nella pace, impegnati nell'assistenza sociale, impegnati nel brosario, impegnati negli ospedali. Compagnie del Divino Amore, ovvero sia in riferimento a Gesù Cristo. Come mai i gesuiti si chiamano la Compagnia di Gesù? Perché quando Ignazio di Loyola, nel suo venire verso Venezia, deciso poi di andare in Terra Santa, ma passa per Vicenza, fa l'esperienza con una di queste compagnie laicali e chiama i primi compagni con cui condivide l'esperienza Compagnia di Gesù, assumendo esattamente questo nome della gruppi laicali fortemente radicati nel territorio. Allora, tutto questo per dire che cosa? Tutto questo per dire che c'è una riforma, domande di riforma. Ma come mai questa riforma non riesce ad arrivare a essere strutturale della Chiesa del tempo? Perché siamo in un contesto in cui la domanda era la riforma in capitate in membris, ovvero sia nelle strutture, siamo in una realtà strutturata gerarchicamente. E prima che tutto quanto questo arrivi al vertice, ovvero sia nella Chiesa di Roma, arriva il patatrac, arriva il tracollo, appunto perché non viene assunto come una realtà propria, come una realtà capace di ristrutturare la cristianità del tempo. Perché? Perché sappiamo, dal 1450 il papato ritornato definitivamente a Roma dopo le varie allontanamenti, esili, distruzioni, è interessato soprattutto ad appoggiare la grande arte rinascimentale, è interessato a costituire uno Stato politico che diventa un peso negli equilibri europei del tempo, costretto quindi ad alleanze militari e politiche in contraddizione con la propria funzione religiosa, spirituale che avrebbe dovuto esercitare. E allora questo è proprio il punto di rimente, il punto centrale, ecco, che tocca tutto quanto il tema e il perché quello che era una possibilità non è diventata una realtà. In sintesi, allora, una domanda che percorre l'umanesimo con la sua domanda del valore della persona, dell'individuo come tale, la domanda che percorre di strutture nuove negli ordini religiosi, come anche in vescovi, i quali sono esemplari nel compito che hanno assunto come vescovi e pastori delle loro chiese. Tutto questo arriverà molto tardi, quando? Nel Concilio di Trento, 1543, ma con il Concilio di Trento siamo ormai, i buoi sono già scappati, se vogliamo utilizzare questa espressione più banale. La realtà è completamente diversa. Do due date. 31 ottobre 1517, quella che viene considerata la data in cui Martin Lutero affigge le 95 tesi alle porte della chiesa del castello di Wittenberg. È una leggenda nata successivamente, su cui ritorno. 1517. 1543, l'avvio del Concilio di Trento, quindi non sono moltissimi anni, ma nel frattempo si è creata questa grande frattura all'interno dell'Europa, all'interno della cristianità europea del tempo. Nel frattempo è stata scoperta l'America, il mondo si è dilatato. Nel frattempo, 1527, Roma viene saccheggiata dai lanzichenecchi. Faccio solo un esempio. Con un trauma, uno shock che avviene nella cronaca del tempo. E volevo esemplificarlo con questo fatto che contemporaneamente a Michelangelo, che sta dipingendo il giudizio universale nella Cappella Sistina con tutta la sua drammaticità, se avete presente quel Cristo possente, giunonico, anzi da tipo Giove che giudica e la Madonna impaurita ai suoi piedi, nelle logge vaticane c'è ancora Raffaello e la sua scuola che sta dipingendo quelle scene deliziose che recuperano dalle grotte, le grottesche, dalle grotte dell'archeologia della Roma del tempo. Quindi vorrei dire che proprio in questo che possiamo vedere andando a visitare il Vaticano, ma possiamo vedere proprio due mondi contrastanti, la domanda di un giudizio o la paura di un giudizio, il tema di un giudizio sulla storia, e dall'altra parte quel mondo affascinante, bello, luminoso, solare, apollineo vorrei dire, ma che convivono contemporaneamente, 1527. Ritorno a Martin Lutero, ma contestualizzandolo in questo quadro molto, molto più ampio, dove forse appunto il giudizio di Michelangelo e gli affreschi di Raffaello possono essere utilizzati come due immagini di un mondo che si sta spaccando all'interno. Chi è Martin Lutero? Martin Lutero è un pio frate agostiniano, figlio di un piccolo impresario minerario della Sassonia, il quale, contrariamente al parere del padre, dopo aver studiato giurisprudenza, quella che poteva dare, quindi è il figlio arrivato che entra nel mondo della cultura rispetto al padre che si era sporcato le mani facendo il minatore e poi diventando piccolo impresario, che a un certo punto abbandona la carriera di legista, di giurisprudenza, e si fa frate. Molti di questi episodi Martin Lutero ce li presenta a molti anni di distanza. Quindi dobbiamo anche tener conto che sono reinterpretazioni, riletture che lui fa della sua vita precedente, caricandole di quel significato che potevano avere rileggendo tutta la sua avventura e la vita dopo quello che era successo nel 1517. In parte le rilegge lui e in parte soprattutto noi abbiamo un documento molto interessante che sono i discorsi a tavola, Voi avete detto presente l'immagine di Martin Lutero, riporto questa più famosa del Granach, che comunque Martin Lutero, soprattutto dopo essersi sposato con la ex monaca cistercense Caterina von Bora, era uno che gli piaceva stare a tavola, e a tavola aveva sempre discepoli, aveva amici, aveva allievi che condividevano con lui abbondanti anche libagioni. E in quel contesto era interpellato, e questi discorsi che venivano a tavola ci sono stati riportati dai discepoli, i Tischreden, i famosi discorsi a tavola, che si dimostrano anche quello che è un uomo appassionato e anche appassionante, capace di appassionare, cioè una forte personalità, che si muove appunto da una esperienza, rileggo e ridico, cioè la tradizione, la voce che si sarebbe fatto frate dopo che si sarebbe salvato da un fulmine chiedendo l'intercessione di Santa Barbara durante un suo viaggio da Eisleben verso Wittenberg. Si salva da questo fulmine che lo stava colpendo, fa il voto di farsi frate. Ecco, questo è un po' la sintesi, ma credo che non regga, è frutto di una evoluzione progressiva questa sua scelta. E Martin Lutero entra nell'ordine degli agostiniani nella componente già osservante, riformata. Quindi si trova all'interno di un contesto dove vive una vita austera. Ma qual è il tema che a un certo punto diventa incandescente nelle sue domande? Come può l'uomo salvarsi? E da che cosa gli proviene questa domanda, che è una domanda individuale, che vedete tocca ancora quel tema che vi dicevo prima, della individualità. Tocca proprio il tema del io, come mi salvo, chi sono io, come posso salvarmi, perché nell'orizzonte c'è ancora un significato che è totalmente credente e cristiano, problema della salvezza individuale nel momento in cui una salvezza ecclesiale non riesco più, non mi viene data nella afasia o nella confusione. Da che cosa gli viene questa domanda a Martin Lutero? Gli viene da una parte perché è docente, professore di teologia biblica nella Università di Wittenberg, che era stata fondata da poco dal principe Federico il Saggio. Ma soprattutto gli viene da un altro fatto, cioè che Martin Lutero è un pastore, confessa, sente le domande della gente. In un momento drammatico, con il sen di poi, in cui in Germania c'è la predicazione della indulgenza, che viene appaltata, fatto scandaloso appunto per noi, l'indulgenza per la fabbrica di San Pietro, che viene ad essere appaltata dal principe vescovo Alberto di Hohenzollern di Brandeburgo, viene ad essere appaltata ai domenicani. Quello che Lutero sente è che c'è un criterio puramente quantitativo di questa indulgenza. Poi tutta quanta la sintetizzo in quel famoso aneddoto secondo il quale, nella predicazione, anche se non è storicamente vero, ma può essere solo giusto per sintetizzare, l'espressione secondo la quale, come la moneta faceva tilt nella cassetta, l'anima avrebbe fatto clink e sarebbe andata in paradiso. Questa è un'espressione che ha sintetizzato in modo aneddotico anche la controversia sul problema dell'indulgenza, ma dietro questo aneddoto, vero o non vero che sia, c'è questa domanda. La salvezza può essere acquistata monetariamente? La salvezza può venire dalle opere che uno compie e che mi giustificano? Oppure c'è una salvezza che viene ad essere data per la gratuità totale di Dio? Allora voi capite che qui dentro troviamo il cuore di quello che anche Papa Francesco ha detto a Lund, ovvero sia, cioè che Lutero è un uomo che ha vissuto intensamente la domanda della misericordia di Dio. Dov'è che la vive, come cresce questa domanda in Martin Lutero? Lui a distanza di tempo la chiama l'esperienza della torre, ovvero sia in quel luogo, nella torre del convento degli agostiniani di Erfurt, dove rileggendo e ripensando insegnando la lettera ai Romani di Paolo, avrebbe trovato quell'espressione nel capitolo primo, versetto 17, cioè che l'uomo è giustificato per grazia da parte di Dio. Cioè che l'uomo si salva non per i suoi meriti, ma unicamente per la grazia di Dio. Chissà quante volte avrà letto questa frase o quante volte l'abbiamo sentita, ma ci sono certe frasi o certi eventi, certe situazioni, vissute moltissime volte in modo normale o banale, che a un certo punto invece si impuntano e diventano, assumono un significato completamente diverso o vanno in profondità. Questo diventa per Martin Lutero, cioè, la risposta a tutte quelle che erano anche le sue ossessioni sul tema della salvezza, che non si poteva acquistare soltanto perché si era fatto monaco, non poteva acquistarsi attraverso le opere buone che l'uomo può compiere attraverso i propri meriti. Difatti lui rifiuterà la lettera di Giacomo come pale, a paglia una lettera che non considera nei testi canonici rivelati. Ma è da qui progressivamente, allora è da qui che nasce da questa domanda, che Lutero nell'ottobre del 1517 pone quelle 95 tesi. Cosa sono le 95 tesi? Noi le abbiamo fatte diventare il documento principe del scatenamento della riforma protestante, mentre non era altro che un sistema in uso presso i maestri teologi del tempo, dove quando un problema teologico si voleva dibattere, portare alla pubblica discussione, lo si pubblicava in modo che potesse essere discusso. E queste 95 tesi tocca tutti quanti quei temi che emergono proprio sul modo con cui veniva fatta la predicazione per l'indulgenza al fine di acquistare mezzi per la fabbrica di San Pietro di Roma. Ma le 95 tesi sono diventate successivamente il simbolo, il punto di raccordo di una domanda molto più ampia. La domanda viene rivolta soprattutto al suo vescovo, Alberto di Brandeburgo. Non era uno spinto di santo, era della famiglia degli Hohenzollern, quelli che poi passarono alla riforma per poter utilizzare appunto i territori, secolarizzare i territori dell'ordine teutonico. Aveva fatto, se vogliamo stare dentro il pettegolezzo, ma anche un fatto grave, storico, aveva chiesto un prestito ai Fugger, ai grandi banchieri, di ben 10.000 ducati del tempo per poter pagare il permesso di diventare vescovo anche di Halberstadt e di Magonza, principe elettore di Magonza, in un accordo segreto per cui metà delle entrate delle indulgenze sarebbero andate per la fabbrica di San Pietro e l'altra metà per restituire il prestito fatto ai Fugger. E queste sono cose che si sapevano, ma che scandalizzano. A partire da Alberto di Brandeburgo non dà nessuna risposta alle domande, alle provocazioni di Lutero sul tema delle indulgenze. Allora Lutero lo lancia all'interno di tutto quanto il dibattito nel mondo germanico. Qual è stata la fortuna di Lutero? Lutero utilizza la stampa inventata da poco. Ovvero sia, Lutero le sue idee le diffonde attraverso la stampa, i libelli, stampati velocemente, che nel giro di pochissimo tempo raggiungono tutte quante le università, raggiungono tutti quanti i luoghi della riflessione umanistica presente all'interno della Germania. Ed è chiaro che la pentola inizia a bollire fortemente. C'è un forte senso antiromano presente nell'umanesimo tedesco. Nel 1500 c'è una situazione di grande ancora incertezza politica, perché è morto l'imperatore Massimiliano, si sta attendendo la nomina del nuovo imperatore che verrà sancito con l'appoggio del papato nella figura di Carlo V, il quale eredita appunto da parte di padre, eredita tutti i possedimenti degli Asburgo d'Austria, delle Fiandre, da parte della madre Giovanna la Pazza, la figlia di Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, eredita tutti quanti i possedimenti spagnoli, creando questo enorme impero. Quindi siamo in un momento anche di grande incertezza politica, ma buttato il sasso dentro lo stagno, nel 1520, dopo essere stato scomunicato, accelero nei fatti per arrivare ad alcuni punti fondamentali, nel 1520 viene scomunicato con la bolla Et surge Domine, Lutero risponde con tre libretti importanti che girano velocemente per tutta la Germania. Il primo è sulla cattività babilonica di Roma. Utilizza tutto quel genere letterario antiromano presente nella cultura tedesca del tempo. Ovvero sia, cioè Roma è la Babilonia. Recupera tutti questi antichi stilemi della letteratura precedente. Scrive un altro libretto che gira per la Germania velocemente, La libertà del cristiano. Una libertà fondata appunto sulla parola di Dio, su quella intuizione che aveva sperimentato del che il giusto vivrà per la fede e solo questa lo giustifica davanti agli occhi di Dio e non con le proprie opere. E scriverà un terzo libello alla nobiltà della nazione tedesca, ovvero sia un invito a ricreare una coscienza del popolo germanico, soprattutto della nobiltà tedesca, del popolo germanico, appunto capace di ritrovare la propria identità in questo momento di instabilità anche politica. E velocemente, allora, qui inizia l'avventura di Martin Lutero, cioè un monaco agostiniano che diventa un personaggio pubblico, che viene anche utilizzato, diciamo, nella varie strumentazioni politiche del tempo. Nel 1520 viene ad essere condannato nella dieta di Worms, quindi bandito dall'impero. Il suo protettore Federico il Saggio lo nasconde, lo colloca dentro il castello di Warburg, quello che era stato di Santa Elisabetta d'Ungheria. Lutero per un anno sparisce dalla circolazione. Ha tutto quanto il tempo però per scrivere, tradurre la Bibbia dal latino al tedesco, ed è il Dante della lingua tedesca, è lui il fondatore della lingua tedesca, e ha tutto il tempo per riorganizzare la propria teologia, la propria riflessione, soprattutto dopo che l'aveva già espressa all'interno di questi tre libelli che girano e che incendiano la Germania del tempo. Qual è stata la fortuna? Per te allora questa riforma non è un episodio locale. Si dice che quando Leone X avrebbe firmato la scomunica, mentre era a caccia mentre era a caccia, a cavallo avrebbe firmato la scomunica. Ma credo che questa faccia parte appunto di quell'aneddotica che rinfocola tante immagini. L'avrebbe considerato una delle solite beghe tra i frati bontemponi che non hanno altro da fare. Cioè non si era reso conto invece che era ben altro, perché toccava una domanda fondamentale dell'individuo, della propria salvezza, cioè dell'identità credente. E soprattutto si innestava in un mondo come quello della Germania, che era un mondo incandescente. Chi è che ne approfitta subito? Ne approfittano subito i grandi principi, i grandi feudatari tedeschi, che utilizzano questa libertà, che utilizzano questo libello di Lutero alla nobiltà della nazione tedesca per proclamare, per ricostruire una propria autonomia rispetto all'autorità imperiale, che fatica a tenere in piedi il sacro romano impero, che istituzionalmente è ancora una realtà. E la lotta, allora da qui nascono tutte quante le guerre, che noi chiamiamo guerre di religione, ma che invece sono delle guerre che hanno un retroterra dove il motivo religioso è soltanto il motivo motivante esternamente, ma dietro ci sono dei forti interessi politici, cioè creare una propria autonomia. la dinastia degli Hohenzollern, quelli che proclameranno il secondo Reich nel 1870, non è altro che il gran maestro dell'ordine militare, cavalleresco, religioso, teutonico, che utilizza appunto la proposta di Lutero per secolarizzare questi beni e dare avvio alla dinastia che poi porterà alla Prussia e poi porterà al secondo Reich nel 1870. Quindi si innesta dentro una situazione politicamente estremamente complessa e esplosiva. Interessante che quando Carlo V, esausto di tutte le guerre, soprattutto dopo il 1548, quando vince la Lega protestante a Smalcalda, che si era costituita contro i principi cattolici, perché ormai è diventata una terra di divisione, chi ha degli interessi, chi ha altri, sotto l'ombrello, la motivazione di tipo religioso. Nel 1555 si ritira, abdica, e si ritira nel monastero di Juste, nell'Estremadura, nel sud della Spagna, dedicandosi al suo hobby preferito, che era quello di sincronizzare gli orologi. Però ci dicono i testimoni che avrebbe detto, se l'ha detto non lo sappiamo, ma se l'ha detto è comprensibile, quanto stupido sono stato. Non riesco a sincronizzare i miei orologi e ho preteso tutta una vita di sincronizzare degli uomini e delle realtà politiche che era impossibile da mettere d'accordo. Utilizzo questo aneddoto appunto, ma per dire della fotografare la realtà estremamente complessa, che poi appunto esplode progressivamente in una conflittualità che arriva al suo apice nella guerra dei Trent'anni, 1618-1648 in Germania. Una guerra devastante, dove dietro c'è il motivo apparentemente religioso, ma è un problema di alleanze tra il mondo protestante e il mondo cattolico, quindi tra il nord e il sud dell'Europa, nella sua divisione, dove in mezzo si pongono appunto gli Asburgo come dinastia cattolica a fare da cuscinetto tra questi due mondi così culturalmente, religiosamente, che si distanziano fra di loro. Per questo è comprensibile lo shock che ci fu nel 1918 con la sparizione dell'Austria, perché finiva un equilibrio all'interno dell'Europa tra il nord e il sud, garantito dalla dinastia cattolica degli Asburgo. Allora, se questo in sintesi mi pare il percorso, e spero anche di aver individuato soprattutto su questa specificazione, che è un problema legato proprio all'umanesimo, al tema della persona come tale, a una domanda che mi proviene dalla identità personale nella risposta esistenziale alla domanda religiosa. In questo io troverei il cuore profondo, al di là di tutti quanti i fatti, per comprendere Lutero e la fortuna che ha avuto la riforma protestante, il mondo protestante. Volevo passare verso la conclusione invece come lo si sta rivivendo, al di là appunto delle parole di Firpo, così, che parla di questi irenismi utopistici dei teologi, in quella citazione che vi ho fatto prima, ma invece tanto uno degli elementi che ha anche unito il mondo tedesco, mi ricordo appunto quando studiavo in Germania me lo dicevano persone, che il fatto che dopo la seconda guerra mondiale ci sia stata questa ristrutturazione con spostamento di popolazioni cattoliche e protestanti nella riorganizzazione della Germania, pensate a tutti quanti i profughi che venivano dalla parte diventata Polonia, cioè lì non c'è più stata la distinzione che c'era prima tra paesi cattolici e paesi protestanti, che erano nettamente separati sulla base del principio del cuius regio eius et religio, lì si mescolano. E incontrandosi vedono che poi l'avversario non è così cattivo, così brutto. E allora qui ritroviamo il principio fondamentale anche dell'ecumenismo, quello che sta portando avanti fortemente Papa Francesco, che prima delle idee o delle controversie teologiche e ideologiche è l'incontro con la persona che costruisce ponti. che ricostruisce tessuti lacerati, ma è proprio il dialogo, l'incontro, pur riconoscendo la diversità che può diventare una ricchezza nel momento in cui tu lo accogli. E allora sentite che ritorniamo su un problema antropologico di fondo. Allora è stato grazie anche a questo, io lo citavo per il caso tedesco, ma poi il lavoro dell'ecumenismo, dalla Unitatis Redintegratio del Vaticano II a tutto il cammino che è stato fatto successivamente. Ricito, nel 1983, centenario della nascita di Lutero, un documento cattolico lo definisce un vero testimone di Cristo, cioè un uomo appassionato di Cristo. Nel 1999 è uscito un documento molto importante che ha trovato assieme documento firmato da cattolici e da protestanti su quello che era il tema fondamentale della divisione, sulla giustificazione. Siamo giustificati per grazia o per le opere? Sintetizzo banalmente, poi qui c'è il teologo Giulio che può dire meglio o lo dirà meglio questo aspetto. E si sono ritrovati, cioè dialogando, hanno visto che le posizioni non erano così diametralmente diverse. La separazione è avvenuta perché non erano più capaci, non hanno più dialogato tra di loro, perché lo scontro ha portato all'allontanamento e più ci si allontanava più rendeva impossibile il dialogo e sono diventati monologhi. E allora nel documento che ha preparato appunto volevo fare tre citazioni, a partire da questo documento che ha preparato l'incontro di Lund, così sto dentro anche il tempo canonico che mi è stato dato. Ecco, leggo, nell'evento vissuto tra il 31 ottobre e il 1 novembre a Lund, in Svezia, dove dal 1947 c'è la sede della Federazione Luterana Mondiale, con il presidente che è questo vescovo luterano che proviene da una famiglia ortodossa, greco-ortodossa, profuga palestinese Yunnan. Allora, il motto di questo evento era insieme nella speranza, together in hope. E si è realizzato ciò che sembrava impossibile, invece è accaduto, come ha affermato il pastore Junge, segretario della Federazione Mondiale. E dove anche la presenza di Papa Francesco non era un invitato tra gli altri, ma era co-invitante, quindi a pari della Federazione Mondiale, quindi sullo stesso piano, proprio grazie a questo dialogo ecumenico. E che credo, faccio una breve parentesi, che appartiene a questo impegno, citava prima Don Roberto il discorso appunto dell'altro giorno del Papa, che la riforma della curia, cioè del centro, deve andare in profondità, non è questione di maquillage, ma i gesti ultimi di questo pontificato, di un Papa venuto dall'altra parte del mondo, quindi anche libero da questo peso della storia che noi ci portiamo dentro, consciamente o inconsciamente, ha posto quei gesti di una decentralizzazione appunto da Roma con quello che Roma significa, iniziando da quando si è affacciato al balcone definendosi il vescovo di Roma che presiede nella carità. E poi è andato a Lesbo e poi a Cuba ha incontrato Cirillo. Quindi sono tutti quanti dei gesti che parlano di questa funzione, ecco, in cui il vescovo di Roma esercita una funzione diversa rispetto alla storia. E il Papa Francesco, in aereo, ritornando, appunto diceva che la gente deve capire bene quello che è stato l'incontro di Lund. E com'è che lo può capire bene? Se conosce la storia. Cioè, se conosce la storia nei suoi misfatti, ma anche nei suoi fatti. Cioè, non per giudicare come molti siti web continuano ad andare contro Papa Francesco per il gesto di Lund, ma per comprenderli nella complessità. Vedete, il lavoro dello storico, non è un lavoro archeologico, ma è un lavoro di addentramento dentro la complessità del tempo, dei fatti, della storia, che cerca di ricomprenderli, non per giustificarli, ma per capire. Capire anche il presente, che come dicevo prima è sempre incinto del passato. Chiudo con queste citazioni dagli eventi di Lund. Allora, quello che ha detto Yunnan, presidente della Federazione Luterana Mondiale, che è un punto d'arrivo di un lungo viaggio dal conflitto alla comunione. Sono stati sottolineati i passi fatti senza negare i punti divergenti per arrivare a una piena comunione eucaristica, che è stato riconosciuto che ancora non è possibile, come il Papa ha detto chiaramente sul problema dell'ordinazione delle donne. Ci sono posizioni diverse. Papa Francesco, che ha detto: Spirito Santo, aiutaci a riconoscere con gioia i doni che sono venuti alla Chiesa attraverso la Riforma. Preparaci a pentirci dei muri di divisione innalzati da noi e dai nostri antenati e rendici atti alla testimonianza e al servizio comune al mondo. E hanno sottoscritto un documento di reciproco aiuto nei confronti appunto dei profughi, delle urgenze che stiamo vivendo in questo momento. Il segretario Jung ha detto: nel secolo XVI cattolici luterani hanno spesso non solo frainteso, ma hanno anche esagerato le opinioni degli avversari per renderli ridicoli. Essi hanno violato ripetutamente l'ottavo comandamento della falsa testimonianza. Il presidente del Pontificio Consiglio dell'Ecumenismo, Koch: luterani e cattolici hanno accettato che il Vangelo fosse mescolato con gli interessi politici ed economici del potere dominante, e ciò ha provocato tra il popolo centinaia di migliaia di vittime. Cattolici e luterani, nel contesto della commemorazione comune della Riforma del 17, in questa abbiamo una nuova opportunità di accogliere un percorso comune che ha preso forma negli ultimi 50 anni nel dialogo ecumenico tra Federazione e Chiesa Cattolica. Con gratitudine, Papa Francesco ti dice, con gratitudine riconosciamo che la Riforma ha contribuito a dare maggiore centralità alla Sacra Scrittura nella vita della Chiesa. E attraverso l'ascolto comune della parola di Dio nelle Scritture, il dialogo tra Chiesa Cattolica e Federazione di cui celebriamo ha compiuto passi importanti. E l'esperienza spirituale di Martin Lutero ci interpella e ci ricorda che non possiamo fare nulla senza Dio. Come posso avere un Dio misericordioso? Questa è la domanda che costantemente tormentava Lutero, e la dottrina della giustificazione esprime l'essenza dell'esistenza umana di fronte a Dio. Chiuderei con queste parole, rimandando appunto alla lettura di questi altri documenti, in cui, ecco, forse la parola d'ordine era capire bene, capire questa complessità, ecco, che ci sta direttamente alle spalle, e anche la grazia di questo evento, come lo stiamo vivendo, interpretando, grazie al cammino che si è fatto e grazie all'azione dello Spirito Santo che comunque continua a guidare la Chiesa. Chiudo con quell'aneddoto famoso del quando con Napoleone stava discutendo con il cardinale segretario di Stato Consalvi sul concordato tra Roma e Parigi dopo la rivoluzione francese. Mentre non trovavano l'accordo, a un certo punto Napoleone avrebbe battuto il pugno e ha detto: guardi eminenza, che io voglio distruggerò la Chiesa. Il cardinale Consalvi risponde: maestà, non sono riusciti i preti fino ad oggi e non sarà lei a distruggere la Chiesa. Ma qui ci spostiamo in un altro ambito storico. Grazie. Giorni della Chiesa. È Era fra Luciano Bertazzo, intervenuto in uno degli incontri del ciclo del martedì promosso dal Centro Universitario di Via Zabarella a Padova, ciclo dedicato quest'anno ai 500 anni della Riforma Luterana. Fra Luciano ha esposto i caratteri generali della Riforma, percorso che proseguirà sempre in collaborazione con il Centro Universitario anche nelle prossime settimane. Poi ci saranno anche altri incontri in programma sempre per questa importante ricorrenza. Grazie a Edi Daici in regia, a voi per l'ascolto, da Mirko Cavallini, buon proseguimento. I giorni della Chiesa, eventi e incontri della Diocesi di Padova.